di lei, come sospira le parole, e del suo sguardo che se vuole muove le cose. Si parlami di lei, come si spiega il suo respiro, che manda via le lacrime e il veleno giù nel suo cuore. Su, parlami di lei, come ha cambiato la tua vita, con un vestito intenso di fragranze nuove diventa vasa in ogni suo momento. Il sole cadono giù dal viso suo torrente di stelle, formando la diverte calme notti immense, cos'altro sa fare di speciale. Su, parlami di lei, si dice che un suo sorriso sia molto meglio di un cielo sereno. Che se non la vedi un'ora dopo non sai lo scopo. E la semplicità con cui ha dissolto quella nebbia, come un mattino splende nelle tue parole, disordinate buie nelle mani vuote. Sulle cose belle giocano, sulle braccia sue tramonti in prezza, e cos'altro vuol dire? Parli di lei come l'ultimo raggio di sole, parli il suo nome una musica senza. Ancora